e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E ben ritrovati a tutti. Allora, come annunciato ormai da tanti giorni, perché volevamo tanti avventori che ci venissero a trovare, siamo in trasferta a Bologna per la 34esima edizione di Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e l'Arredobagno. Ci trovate subito, appena entrati, basta far passare il badge nel tornello. E ci cadete dentro. Esattamente. Centro Servizi Stand 1. Allora, il consumo mondiale di ceramica è in continuo aumento e non esiste sul mercato un prodotto che la sostituisca. Questo è quanto ha detto ieri il presidente della manifestazione Borelli, e ha detto anche: le aziende italiane sono leader nell'innovazione e nella tecnologia del settore. Noi ce ne siamo effettivamente reso conto girovagando fra gli stand presenti, come abbiamo fatto anche negli anni passati. E delle eccellenze italiane, delle soluzioni di tendenza, ma anche di quelle a portata di portafoglio, parleremo oggi nella prima parte della puntata. Per cui siate pronti come sempre ad intervenire all'800 24 00 24. Se volete, mandateci anche delle foto all'indirizzo della trasmissione cuoredenari@radio24.it, oppure postatele su Facebook, mandateci la foto del vostro bagno, perché oggi cercheremo di fare così un progettino per rinnovarlo. Ma anche se avete più complessivamente in mente di rinnovare la vostra casa, avremo due esperti a vostra disposizione, lo sono già per il salone, e quindi ci faremo dare per quanto possibile nel corso di una breve telefonata qualche suggerimento anche in merito a tutte le novità che ci sono nel settore. Ne approfitteremo quindi, perché noi ci allarghiamo in un attimo. Noi proprio spudorate fino alla fine. Deborah, Bologna è famosa per il Cersaie, ma non solo, ha dato anche i Natali a tanti personaggi famosi che ci piacciono, Lucio Dalla, Pupi Avati, Stefano Benni, Alberto Tomba, Stefano Accorsi, ne citiamo solamente alcuni, e anche tre soprannomi: la Dotta, la Grassa e la Rossa. Guarda quante esse. Tu sei la Dotta, io sono la Grassa, la Rossa dove sta? Ma... Allora, la Dotta perché è sede dell'università più antica del mondo occidentale, Grassa perché caratterizza questa passione per questa cucina squisita, generosa, mentre Rossa per il colore rosso delle case. Vedo che già i tuoi ospiti sanno. E soprattutto celebre anche per le sue eccellenze nella clinica e nella ricerca. È bolognese la cura per eradicare l'Helicobacter pylori, di cui parleremo col professor Di Novaira, che ha collaborato proprio con gli scienziati che l'hanno scoperta. Come dire proprio che si trovava lì al momento giusto, nel posto giusto, anche se anche per la scoperta dell'Helicobacter, come spesso è capitato, è stato il caso. Quindi è capitato anche a voi di scoprire per caso una cosa che poi si è rivelata utile? Volete raccontarcela? 800 24 00 24. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Mi viene da sorridere, tu sai quanto amo questa canzone, ma perché sorridevamo alle esperienze che devono vivere i nostri due esperti che ci hanno già raccontato, che anche per il tipo di professionalità che hanno messo a disposizione in questo salone, capita loro che arrivi qualcuno con, come dire, delle richieste un po'... Esatto, sono proprietario di questo lotto, di questo terreno, mi fai in 20 minuti il progetto sulla villa che ci potrei costruire. Allora, arredamento compreso, certamente, non è che si approfitta del Cersaie a 360 gradi. Allora, adesso vi sveleremo anche il mistero dei nostri due ospiti. Intanto vi ricordo, insomma, dei concetti sui quali in realtà noi ci soffermiamo molto spesso. Sapete bene cosa significhi la proprietà della casa per le famiglie italiane, tanto più che da qualche mese le compravendite hanno ripreso quota grazie alle condizioni del credito immobiliare, che sono ridiventate particolarmente vantaggiose. Poi c'è tutta la partita dei bonus fiscali legati alle ristrutturazioni e alle manutenzioni straordinarie, e che indirettamente appunto è un tema che è il grande convitato di pietra di questo evento, perché tutto il settore dell'arredamento ha trovato un grande sostegno dagli incentivi fiscali. Peraltro circolava da qualche giorno un'indicazione secondo la quale il governo sembrava orientato a rendere ancora più generosi gli incentivi già in vigore da tempo. Adesso circolano delle smentite, potrebbe esserci una relazione con nuovi bonus antisisma, e quindi insomma una partita ancora tutta da vedere. Oggi invece noi parleremo di criteri di ristrutturazione a seconda dell'ambiente in cui viviamo e dei nuovi materiali che possono essere utilizzati con i nostri ospiti di stamattina. Due professionisti pronti a mettere giù anche voi un progettino veloce. L'architetto Rita Campana, che torna a Cuore Denari, ormai la nostra ospite fissa di Cersaie. Buongiorno Deborah e Nicoletta. E partecipa praticamente con la sua professionalità, dicevamo, all'iniziativa Disegna la tua casa qui al Salone, e lo fa anche l'architetto Carlo Magri, designer di interni, progettazione per ristrutturazioni, e peraltro lui è il consulente in questo spazio per conto di Cer Magazine, che è la rivista di Confindustria Ceramica. Esatto. Ho detto tutto buongiorno correttamente. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, ribadiamo il numero verde per intervenire, che è l'800 24 00 24. State mettendo mano ad una ristrutturazione, avete il budget sotto controllo, vi daremo anche un'indicazione nuova su come tenerlo appunto sotto stretta osservazione. Non c'è bisogno di segnarsi tutte le spese, entrate e uscite, ma anche l'architetto può darci una mano a fare una piccola pianificazione. Allora, intanto Rita Campana, ricordiamo che cos'è Disegna la tua casa, chi può venire qui a far che cosa? Certo, guarda, Disegna la tua casa è un'iniziativa che consiste nell'incontro tra privati e professionisti delle testate italiane di interior design e anche di alcune aziende espositrici, e consiste appunto nel dare al privato alcuni consigli, suggerimenti per migliorare la propria abitazione. Quindi facciamo un piccolo progettino, la consulenza dura circa una mezz'oretta, in cui appunto parlare di un ambiente che non si riesce ad arredare, di quali materiali utilizzare e di come sfruttare al meglio lo spazio. Ecco, raccontiamolo allora, che arriva anche da voi, architetto Magri. Io faccio raccontare subito a lei l'aneddoto, perché ne è stato diretto protagonista. Certo. Chi arriva con un bel lotto di terreno, insomma, ancora in mezz'ora... Ancora libero, ancora privo di progetto, e ecco, magari cosa ci vorrà mai a mettersi una villa... Esatto. Ecco. Di inventare un progetto ex novo per un'intera abitazione. Esatto, allora l'architetto Magri che cosa ha fatto? Si è fatto furbo a Cersaie e si fa mandare qualche... Sì, proviamo ad anticipare queste mosse, magari facendoci mandare una planimetria o qualche disegno, così ci possiamo preparare per tempo e dare delle risposte più consone, magari in quello ambito molto ristretto che è mezz'ora, perché in effetti una consulenza di mezz'ora è veramente limitativa per poter parlare di architettura. Neanche si fa in tempo a fare amicizia con la persona appunto che vi viene a trovare, e neanche si fa in tempo a capire quelli che possono essere i suoi gusti oltre che i suoi bisogni, no? Certo, sì, sì. In realtà magari credo anche che molto spesso, Nicoletta, le persone abbiano un'idea di quello che vogliono fare e possono anche cambiarla completamente dopo la chiacchierata con l'architetto. Sì, è facilissimo, è una cosa che accade molto spesso, perché comunque l'architetto ha proprio il ruolo di aprire la mente anche alla persona che si rivolge, al professionista, verso nuovi materiali, nuove possibilità, perché d'altra parte è il nostro mestiere vedere tantissime casistiche, quindi essere aggiornati sul mercato, sulle potenzialità che hanno tantissimi materiali, sulla possibilità di agire in un modo piuttosto che in un altro. E quindi nel momento in cui la persona parla col professionista si rende conto che ci sono tante altre possibilità che possono essere più adatte al suo caso. Certo, architetto Magri, lo chiedo anche a lei. Intanto, così, che cosa chiedono in questo momento gli italiani? Mi rendo conto che anche questo sarebbe un tema da poter essere sviscerato in tempi lunghi, ma ci sono proprio delle tendenze particolarmente evidenti nei gusti delle persone? Nei gusti, ma anche nella tipologia proprio di richiesta architettonica. La maggior parte delle persone l'hanno scorso ci ha chiesto ristrutturazioni di case magari ereditate o case degli anni 70-80, quindi con una caratteristica planimetrica molto particolare che non si usa più, insomma, i corridoi stretti, corridoi di distribuzione, magari ambienti, superfici che superano gli 80-90 metri quadri con un solo bagno, e quindi l'esigenza è quella di avere un secondo bagno perché la stanza da bagno ormai è vissuta in maniera molto differente rispetto ai decenni passati. Quindi diciamo che la maggior parte della casistica, almeno nel nostro caso, è stata questa ristrutturazione di case, magari come seconde case, oppure trasferimento dalla propria casa ad una nuova casa ereditata, più grande, quindi... E invece per quello che riguarda le novità qui di Cersaie, voi dal punto di vista professionale che cosa vi sta attirando di più, Rita Campana? Cosa c'è di particolarmente bello, interessante, nuovo? Guarda, secondo me sono interessantissimi questi spunti al passato, cioè si guarda quello che erano i rivestimenti, anche vecchie carte da parati passate o il recupero delle cementine, però naturalmente in una visione più moderna, più lineare, più pulita, però c'è questo recupero di quello che era la storicità. Perché in effetti comunque il patrimonio edilizio italiano è vastissimo, soprattutto quello già esistente, e quindi anche recuperarlo in versione moderna è secondo me un modo per unire presente, passato e futuro. Quindi ad esempio ci sono alcune piastrelle che hanno proprio le fattezze di un vecchio intonaco un po' rovinato. Mi piacciono. Sì, oppure del cemento, anche quello con le piccole crepe. Quindi questo recupero di quella che è la storia italiana del patrimonio edilizio italiano, però in chiave moderna. E fa, devo dire, veramente un effetto meraviglioso. Benissimo. Allora, intanto abbiamo il traffico. Ricordo agli ascoltatori che possono intervenire in diretta all'800 24 00 24. Diteci che bagno avete e noi vi diremo chi siete. Mi è piaciuta questa. Mi piace. Viabilità, tra poco. Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. www.axerta.it. Vi presenta... Cuore e denari. Una vecchia mattonella per ballare tête à tête. Allora, siamo al Cersaie, 34esima edizione, il salone dell'arredo bagno, e il bagno è una stanza di primaria importanza per chi abita una casa. C'è chi vuole un ambiente spettacolare e moderno, chi invece punta tutto sulla praticità, anche per pulirlo, diciamolo. E sul minimal, voi siete dei professionisti, Rita Campana, Carlo Magri, appunto, su quali caratteristiche del bagno siete irremovibili anche di fronte alle richieste più estrose da parte dei clienti? Rita Campana. Io direi assolutamente sulla funzionalità, ovvero l'adeguatezza soprattutto degli impianti. Secondo me è la cosa su cui non bisogna l'aspetto trasparente, esatto, su cui non bisogna risparmiare né lesinare è una buona impiantistica, perché se ristrutturiamo completamente un bagno, rifacciamo il rivestimento, il pavimento, sostituiamo i sanitari, poi ci troviamo con dei problemi agli impianti dopo, spendiamo il doppio e dobbiamo rifare completamente tutto. Magri? Per me invece, da un punto di vista proprio prettamente architettonico, sulla qualità dell'ambiente, sulla luce, l'illuminazione. Spesso viene trascurata nell'ambiente bagno l'illuminazione. Se si ha la fortuna di avere un bagno con illuminazione diretta, naturale, esatto, con un'illuminazione naturale, va valorizzata. E soprattutto le pratiche che si svolgono in bagno, tipo specchiarsi, truccarsi, avvantaggiandosi della luce naturale, sono fondamentali. Spesso invece si pensa ad un aspetto più estetico: apro la porta e voglio vedere prima il lavandino anziché i sanitari, e spesso la finestra si trova in fondo al bagno, e quindi la zona dove sarebbe più necessario avere illuminazione diretta e illuminazione naturale rimane la più oscura, no? Quindi è lì che dovete cominciare a litigare, esatto, col cliente per ribaltare la disposizione, esatto, dei sanitari lavandino. Esatto, è molto importante invece privilegiare quella come funzione, aereazione e illuminazione diretta naturale quando è possibile, altrimenti lavorare poi con la luce artificiale per simulare il più possibile quella che è la colorazione della luce naturale. Per me in bagno, più che in altri ambienti come la camera da letto, è fondamentale. Certo. Lei invece, per quello che riguarda le novità presenti a questo salone, da che cosa è rimasto particolarmente colpito? Anche se voi magari per voi non rappresentano delle novità, ma delle tendenze che avete già notato. Sì, ormai notato, si sono in qualche maniera confermato. Decisamente la tendenza a simulare materiali naturali come il legno, con il grès porcellanato, bellissimo. È una tendenza che è iniziata ormai da un lustro, però si è consolidata moltissimo in questi anni. Addirittura dalla simulazione si è passati alla creatività vera e propria, nel senso che ormai siamo certi che il grès porcellanato può imitare perfettamente le venature del legno, e le aziende italiane sono andate oltre, creando nuovi legni che non esistono proprio, o colorazioni molto particolari. Siamo straordinari. C'è una grandissima ricerca anche a livello tecnologico, perché immaginate dover simulare una doga di 2 metri con la ceramica. Ci sono problemi tecnici molto importanti, perché in fase di cottura la ceramica subisce deformazioni. Certo. Quindi mettere a punto un sistema tecnologico che garantisca la rettificazione, l'indeformabilità di questi prodotti, per poterli far somigliare sempre di più al legno, ad esempio, è il fiore all'occhiello della nostra tecnologia italiana, inimitabile. Esatto, rimango ancora con lei, architetto Magri, perché ha utilizzato questo termine che è simulazione. Sì. Allora, grazie alla possibilità oggi di simulare, se dovessimo ristrutturare e costruire la nostra casa del futuro, anche con la tecnologia tridimensionale, non so che cosa abbiate, che software o altro, appunto, riesce addirittura lei a consentire al committente della progettazione di stabilire quello che è il budget di spesa, no? Sì. E quindi, ecco, andiamo subito al portafoglio, perché mi sembra importante, anche perché non sempre l'architetto si occupa solamente del rendere bella e funzionale la casa. Ci viene chiesto anche di aiutarci, esatto, a tenere sotto controllo quell'aspetto. Il costo è fondamentale tanto quanto la progettazione vera e propria. Sì, questi nuovi strumenti di simulazione in computer grafica permettono di inserire all'interno di un bagno virtuale ogni singola piastrella, per cui è possibile proprio dedurre da questa simulazione un vero e proprio computo, e in più si risparmia potendo far vedere al cliente la soluzione definitiva con i complementi di arredo, i rivestimenti, addirittura gli apparecchi illuminanti che esistono in commercio, quale sarà la percezione finale del proprio bagno. Quindi si possono eliminare quelle sorprese che magari poi fanno aumentare il budget. Mi aspettavo un effetto diverso, voglio cambiare in corso d'opera la scelta effettuata precedentemente. Quindi la computer grafica in questo veramente può aiutare, oltre a far vedere, ma anche ad abbattere, diciamo. Esatto, anche perché insomma anche l'esperienza mi insegna che generalmente fra il preventivo iniziale e il consuntivo finale ce ne corre sempre un 30% di differenza. Purtroppo sì. Sì. Ci sono delle incognite, come diceva la collega. Ma anche perché strada facendo vediamo tutte le cose più belle, ovviamente. Diciamo all'inizio non spendiamo tanto, qui ci metto tanto questo, tanto che qua ci sono, dai, aggiungo quello, tolgo là. E invece qua poi ci piace fare le cose fatte bene. Un'altra tendenza che ho notato, l'ho notata dalle riviste di design che, beh, per la casa appunto, che mi piace leggere, avvocato, l'ho fatto. Hai cambiato professione. Ho aperto anche lo studio professionale di avvocato, architetto Campana. È la carta da parati in bagno. Sì. Adesso c'è la possibilità appunto di applicare anche la carta da parati in bagno, anche se appunto, come immaginiamo, carta e acqua non vanno tanto d'accordo. No, però quindi, in realtà. Però lì la tecnologia italiana viene in conto. Esistono prodotti appunto tecnici che sono composti da diversi strati, e lo strato finale è proprio quello protettivo, che quindi rende impermeabile, idrorepellente la carta da parati, perciò possiamo applicarla nel bagno e non solo, anche nella doccia addirittura. Allora, Francesco da Palermo, una bellissima domanda, perché punta il riflettore su un elemento fondamentale del bagno. Gli italiani, quando vanno in giro per il mondo, non lo trovano mai nel bagno, ed ecco qua che parte la risata, perché tutti sappiamo benissimo di che cosa stiamo parlando. Ti ricordi che avevamo pensato proprio di fare una puntata su questo, proprio e chiamiamo su di i nostri lui. Amici, esatto. Signore e signori, vi presentiamo il signor Bidet. Allora, Francesco da Palermo, buongiorno. Sì, salve, buongiorno a tutti. Complimenti per la trasmissione, che è stupenda, fatta poi con la presenza dei due architetti, mi fa piacere, molto piacere. Ottimo, bravo. Ecco, se volete vi espongo il mio caso. Io certamente sono in corso di trasformazione di un appartamento per B&B. Ad agosto sono stato negli Stati Uniti, ho avuto il piacere di vedere due alberghi, uno a Boston e uno a New York, tutti e due gli alberghi senza bidet. E parliamo di alberghi a 4 stelle. Ma basta che vada a Parigi, Francesco, sì. Non c'è bisogno di andare a Boston. Anche a Nizza. Ecco, perfetto, però il mio quid rimane sempre quello. Dico, sto per ristrutturare l'appartamento e renderlo B&B. Cosa facciamo questo bidet? Glielo mettiamo o non glielo mettiamo? Ma lo sta scherzando, ma lo chiedo a noi, io non scomoderei neanche Magri e Campana. Ma però, Francesco, lo chiedo a noi, metta un bel bidet. Allora, fa sempre è la sua figura, italiana. Guardi, ma stiamo scherzando, facciamo architetto Magri. Facciamo cultura anche noi, così quando dall'estero. Ma secondo me se le aziende italiane facessero educazione sul bidet in giro per il mondo, ma sai che export che partirebbe? Io l'ho sempre detto. Un tema cuore denari, perché il bidet ha anche una bella funzione. Esatto. Allora, Magri, glielo facciamo mettere sia Francesco? Assolutamente sì. Ma neanche ne discutiamo. Assolutamente messo. Cioè, certo. Chissà perché poi gli è venuta questa illuminazione vedendo il bagno senza bidet, ma lui non ci ha pensato. Stiamo chiudendo, Campana, lei è proprio assolutamente d'accordo. Francesco, e ci mandi la foto non appena finito la ristrutturazione. Allora, credo che sia ora di andare a sentire il giornale radio, sono le 10.55, sì, mi pareva 57 dovessimo chiudere. Allora, mettetevi d'accordo, 57 o 55? Ecco, 57. Pietro La Corte, che non dorme, ha sentito un compaesano di Palermo, si è subito gasato. Ecco. Allora, andiamo ad un altro grandissimo tema che a me piace molto, che è quello della resina. E ce lo propone Antonella da Milano. Buongiorno. Buongiorno, la mia domanda è la seguente. In un bagno in cui c'è il riscaldamento a pannelli, in una casa degli anni 60 circa, è possibile resinare sia il pavimento che le pareti senza togliere le piastrelle? Allora, qua mi dicono di sì, sono pronti. Carlo Magri. Sì, assolutamente. Adesso esistono dei sistemi che possono essere posati sulle piastrelle esistenti, sia a livello di pavimento che di rivestimento. Ma a prescindere dal fatto che la possibilità c'è, voi l'ha suggerito, o spiastrellereste tutto, Campana? La trovo assolutamente una possibilità che riesce ad ottenere un risultato estetico molto accattivante, perché anche la piastrella resinata trovo che abbia un suo fascino, perché poi fuga e piastrella diventano esattamente dello stesso colore, e della stessa finitura, quindi stanno molto bene. Tra l'altro è un materiale che eventualmente potrebbe anche essere applicato con il fai da te, se uno ha un po' di manualità, ecco qua. Parete, soprattutto a pavimento un po' più complesso, ma a parete. Dai, che approfondiremo il capitolo tutto. Resine dopo il giornale radio, quindi vi chiediamo qualche minuto di pazienza e torniamo subito dopo. Cos'è stato? C'è qualcuno? Sono io, Dylan Dog. Quel Dylan Dog. E lui è il mio amico Grucio. Ciao, bello. Intenditrice, eh? E dovresti vedermi nudo a cavallo. Impazziresti per il cavallo. Piantala, Grucio, non possiamo. Siamo già in ritardo. Mi aspettano a Radio 24. Che cosa devi fare? Vogliono che racconti le 8 storie più emozionanti dei miei 30 anni di avventure. Ma quando ci risentiamo? Dal 1 ottobre su Radio 24, tutti sabato alle 15. E quando vuoi, in podcast su radio24.it. State ascoltando un programma offerto da... Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Conti, conti, conti, che sei la mia passione, io parlo, parlo del mattone. Eh sì, perché loro pensano di essere gli unici creativi dell'ambiente, invece anche noi con le nostre trasmissioni ci possiamo divertire quantomeno con la soundtrack, con la colonna sonora. Allora, siamo a Cersaie, 34esima edizione, il Salone Internazionale della Ceramica per l'architettura e l'arredo bagno. Stiamo esplorando le nuove tendenze, i nuovi materiali che si utilizzano adesso per così dare corpo e vita a questo ambiente così importante per la nostra abitazione. Abbiamo fatto il focus sul bidet, necessariamente ridendo anche un po' la nostra campagna, bidet per tutti. Ma esatto, anche perché ribadisco, se davvero ci fosse questo rilancio mondiale della cultura del bidet, chissà l'industria italiana quante cose sempre belle più tecnologico, elegante, esatto. Bello. E invece Nicoletta ci raccontava poco fa che sa addirittura di un paese, non diciamo quale, dove non solo non c'è il bidet nel bagno, ma non c'è neanche la carta igienica mai da nessuna parte. Per è cui vero. Qua hai voglia a diffondere cultura del bagno. E noi stiamo parlando di cose belle, però grazie anche alle vostre testimonianze, magari state ristrutturando proprio in questo momento o cercate di capire come poter rendere al meglio, più funzionale e più bello questo ambiente della vostra casa. Vi stiamo dando qualche suggerimento stamattina con i nostri due ospiti, che in realtà stanno anche animando il salone nell'ambito dell'iniziativa Disegna la tua casa. Sono la Aridaglio con l'avvocato, l'architetto Rita Campana. Prossima vita, esatto. La professione scelta. E l'architetto Carlo Magri. Allora, eravamo rimasti prima al tema della resina. Qualche ascoltatore tecnico dice che in realtà negli anni creano delle crepe, e quindi forse per l'ascoltatrice precedente che diceva la posso apporre sopra le mattonelle direttamente, voi dicevate che oggi ci sono delle soluzioni che rendono questa scelta assolutamente idonea, e invece lui dice no, meglio togliere le mattonelle. Vabbè, non è un must che si faccia, no, è una tecnologia comunque in continua evoluzione, per cui stanno superando anche questi problemi, perché la resina per esempio ha dei problemi posata come pavimento nei piani terra per l'umidità di risalita, quindi rischia l'esfoliazione, ma sono tutti problemi tecnici che proprio giorno per giorno vengono superati con nuovi prodotti. Allora, in realtà molti ascoltatori, quando facciamo questi ragionamenti sui materiali, le cose tecnologiche più intriganti che stanno arrivando adesso sul mercato, la resina e quant'altro, dicono ma voi state parlando del bagno solo di chi ha certe disponibilità economiche, e invece per i poveri diavoli ci si deve accontentare della piastrella bianca da ospedale o poco più. Adesso, architetto Campana, vogliamo dire che ci sono delle soluzioni oggi assolutamente a portata di tutti i portafogli? La resina, che viene considerata come quel materiale che utilizzano solamente coloro che fanno un bagno stramoderno, e in realtà il costo si sta anche ridimensionando. Assolutamente, è costoso. Se dobbiamo in effetti ricoprire l'intero bagno di resina, quindi una resina anche di un certo livello, infatti io a proposito del discorso di problemi tecnologici, io mi affiderei comunque a materiali di ottima qualità. E quindi se dobbiamo ricoprire effettivamente tutte le pareti, tutto il pavimento, la resina ha comunque un costo un po' più elevato magari di una piastrella di buona qualità. Però se invece decidiamo per la soluzione di ricoprire le piastrelle esistenti, quindi utilizzare una resina che è un po' più sottile, quindi non ha diversi strati da apporre e che appunto potevamo, come dicevamo precedentemente, può essere applicata anche con il fai da te, si aggira il costo intorno ai 15 euro a metro quadro, quindi assolutamente abbordabile. Architetto Magri, allora nel bagno si fanno molte docce, magari parliamo anche di famiglie particolarmente numerose, quindi è un ambiente che è particolarmente predisposto a creare umidità e muffa. Come ci si protegge oggi da questo fenomeno? Esistono varie soluzioni, una di queste è appunto la ceramica bioattiva, no? Che è un nuovo trattamento, in realtà è una ricerca che è partita dagli anni 90, è un brevetto tra l'altro di una casa giapponese, la Toto, che ha messo a punto questi agenti che sono in grado di abbattere le muffe, le famiglie, i ceppi di batteri e anche i cattivi odori. E la gran parte delle aziende italiane sono in grado di trattare i propri prodotti, le proprie serie con questo tipo di agenti, per cui diventa facile proteggersi da questo problema. Quindi le bioceramiche, bioattive, sì, infatti è una questione anche proprio di salubrità. Sono sistemi che possono andare bene sia per i rivestimenti esterni e si attivano magari con la fotosintesi con la luce del sole, ma quelli per interni invece non hanno bisogno di luce naturale, si possono attivare anzi maggiormente in caso di umidità. Altro tema, sì. Tra l'altro, per completare appunto il discorso all'abbinamento della ceramica, sarebbe opportuno inserire delle malte possidiche come fughe, che sono appunto idrorepellenti e quindi antimuffa. Ecco, quindi insomma mi pare che difendersi dalla muffa sia un diritto che hanno ricchi e anche persone comunque meno abbienti. Sul bagno forse vale la pena fare un investimento un po' più alto rispetto a tanti altri ambienti dell'abitazione. Eccolo qua, è ritornato, il signor Bidet ormai non ci abbandona più per tutta la puntata. Lo invitiamo anche nelle prossime. Luigi D'Aosta, benvenuto. Buongiorno Luigi. Buongiorno, mi viene da sorridere, buongiorno signore, siete bravissime. Complimenti. Grazie. L'argomento è il bidet, ma mi viene da sorridere. Domanda. Ma ce l'abbiamo tutti e ci auguriamo che lo usi tutti. Esatto, e siamo molto indispettiti quando non lo troviamo in giro, per cui grande, lunga vita al bidet. Non possiamo farne a meno. Però giustamente, allora devo ristrutturare una casa di montagna, dimensioni piccole, attualmente c'è water e bidet. La domanda, guardando in giro per ovviamente ristrutturare, esistono, e ho molti dubbi per questo chiedo all'architetto, dei water con incorporato bidet. La domanda è funzionale, va bene, lo consiglia? E qui mi fermo. Luigi, grazie. Allora, Magri, cominciamo con lei. Sì, per me sono delle soluzioni ideali. Vi capita di averne già suggerito l'installazione? Sì, assolutamente. Uh-huh. Proprio per riuscire a utilizzare, per creare magari un secondo bagno in uno spazio molto molto piccolo, allora necessariamente bisogna rinunciare a qualcosa e magari questi combinati riescono a soddisfare l'esigenza del bidet con un unico sanitario. Architetto Campana? Sì, sono assolutamente d'accordo anch'io. Consideriamo anche che se lo spazio lo permette, cioè abbiamo un bagno piccolo ma riusciamo ad inserire eventualmente i due sanitari, ci sono sanitari di dimensioni ridotte naturalmente rispetto a quelle standard, quindi potrebbero venirci incontro anche in questo senso. Sì, non da puffi però. No, allora, però un po' più piccolini. Intanto volevo salutare Esther, una nostra amica che ci ha inviato le fotografie del suo bagno, il cui allestimento e ristrutturazione ha curato quasi tutto lei, perché è anche un artista, e adesso ci spiace non poterlo fare vedere agli ascoltatori, ma lo hanno visto appunto gli architetti. È una soluzione che combina molto anche un arredamento di antiquariato. Architetto Magri, veramente oggi vediamo... Sì, questa è una tendenza, devo dire, proprio di questi ultimi anni. Quella di poter avere magari un bagno minimal, assolutamente silenzioso, e poi far brillare un pezzo di antiquariato, che può essere un lavabo magari storico da reintegrare. In questo caso il lavabo di Esther invece è trasparente completamente, anche questo è molto innovativo. Magari, certo, su un mobile in stile, no? Un mobile antico, quindi sì. E poi, insomma, tutto questo il piastrellato anticato che abbiamo visto, che ci è piaciuto. Esther, il suo bagno promosso a pieni voti, magari le vi è piaciuto. Ultimo tema che tratto, dopodiché vi saluto perché è già arrivato il professor Vaira. I grandi formati, le piastrellone, una doccia con un'unica piastrella dentro, è possibile, Rita Campana? Anche sì, questa c'è di novità. Grazie appunto alla tecnologia che l'industria ceramica insomma ha raggiunto e sta sempre di più aumentando, possiamo utilizzare dei formati veramente grandi, che ci dà la possibilità, oltre di avere un effetto estetico molto, molto bello, anche di diminuire sempre di più la fuga, che è forse la parte un po' più debole, appunto, come dicevamo, anche per il discorso delle muffe, dell'umidità. Una bella casa che deve essere ristrutturata all'ottavo piano, vai su con tutta la superpiastrella, forse diciamo, il trasporto l'unico, è un problema. L'unico problema vero è adesso un'accurata progettazione della movimentazione di questo materiale, perché ovviamente sono piastrelle di, che possono raggiungere anche i 3 metri. Allora bisogna studiare, progettare non solo il bagno ma anche la movimentazione, come riuscire a montare a questo tipo di è un settore in grande fermento, abbiamo dato una marea di idee per fare innovazione questa mattina. Noi il nostro contributo lo diamo all'industria della ceramica, poi se lo vogliono prendere bene, se no. Signori, grazie per essere stati con noi, complimenti per la vostra creatività e anche per la padronanza con cui ci raccontate tutte le cose belle che fate. Ci avete fatto un po' sognare. Esatto. E io lo dico sempre, insomma, che vorrei avere un sacco di case, avere un architetto per ogni città che mi curi così, che me ne faccia una diversa, una nel sud, una al centro, una al nord, no? Una anche a Bologna, una città bellissima. Sì. Infatti. Allora, ragazzi, allora ci salutiamo. Chissà se il nostro professor Vaira adesso se magari lo possiamo fanno entrare, andare, perché lo vedevo aggirarsi intorno agli studi dall'inizio della trasmissione, ma adesso chiaccherando poi con Elena Ligios saranno, eccolo prof, deve entrare, buttatecelo dentro. Forza. perché abbiamo pensato di proprio a Bologna è un'eccellenza sicuramente per il Cersai e ci bacia. Buongiorno professore, volevamo parlare di un'altra eccellenza bolognese, la terapia per eradicare l'Helicobacter pylori. Ne abbiamo parlato più volte di questo batterio che si infila nel sistema immunitario e agisce come il veleno di Cleopatra, causando tanti disturbi diversi, di diversa gravità, dalla gastrite, quella che noi comunemente chiamiamo il bruciore di stomaco, all'ulcera, al tumore gastrico, per questo come caldeggia anche l'Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro, quando questo batterio si scova è bene eliminarlo e oggi c'è una cura che lo aggredisce per non lasciargli scampo. Allora trasformiamoci nel Helicobacter per questa ultima parte della trasmissione, diamo insomma la caccia al batterio, lo facciamo insieme al professor Dino Vaira, gastroenterologo e professore universitario di medicina interna all'Alma Mater di Bologna, che è tornato con noi. Wow, professore, buongiorno, che bello. Buongiorno Nico, buongiorno Debora, ci vorrei il Cersai per vedervi a Bologna. Come ci trova? Meravigliosamente bene. Bologna vi adotterà. E noi siamo pronte ad essere adottate. Allora professore, intanto voglio raccontare ai nostri ascoltatori che lei c'era quando è stato scoperto, perché ha lavorato con i due ricercatori Marshall e Warren, che poi hanno vinto il Nobel per la medicina proprio per aver scoperto che il nostro stomaco, che era considerato un po' una fortezza inespugnabile, viveva indisturbato questo batterio a forma elicoidale, carino a vedersi, pericoloso ad averci a che fare, l'Helicobacter. Loro l'hanno scovato, ma sono gli italiani, anzi i bolognesi, che hanno trovato il modo. Eravamo a Londra nel 1986, ci riunivamo come la massoneria, perché ovviamente tutti ci pigliavano in giro, giustamente, perché dicevamo una cosa assurda, che l'ulcera era una malattia infettiva. Quindi giustamente tutti ci lanciavano dei pomodori e delle bietole possibilmente marce, ma in realtà era il germe di questo meraviglioso premio Nobel. Professore, avete trovato la cura per scacciarlo, in termine tecnico è corretto parlare di eradicazione. Perfetto. Ma avete, non è stata così semplice, perché avete avuto tanti problemi da superare, tra cui quello di avere a che fare, trattandosi di un'infezione batterica, con gli antibiotici, farmaci a cui noi siamo sempre più resistenti. È stata insomma una bella sfida. Come siete arrivati a formulare questa terapia che si dice sequenziale? Il termine ci fa capire già quindi che non è una pastiglietta e finita lì, ma è un cocktail. Professor Vaira. Questa è una cosa veramente strana, perché questo batterio, che è molto difficile da allevare, noi lo alleviamo, lo coccoliamo, gli facciamo le carezze, altrimenti muore. In realtà poi quando dobbiamo tirarlo via abbiamo bisogno di vere e proprie bombe, quello che per esempio facciamo nei focolai o broncopneumonici, cioè abbiamo bisogno di 2 antibiotici. In medicina, per far capire ai nostri radioascoltatori, la cistite, la bronchite, la faringite la curiamo con un solo antibiotico. Utilizziamo 2 antibiotici, tra virgolette, solo in ospedale. Bene, questo benedetto batterio ha bisogno addirittura di un doppio antibiotico, perché si aggrappa perdonatemi il termine, non ho medico, alla parete dello stomaco, quindi bisogna aggredirlo sia dallo stomaco sia dal terreno ematico, ovvero attraverso il sangue. Allora, 800240024, se avete fatto la terapia raccontateci se e come ha funzionato. Nel frattempo avete controllato che l'inquilino abbia traslocato? È bene rifare comunque un controllo, professore, anche dopo aver eseguito la terapia? Questa è una notizia bellissima, il vero motivo per cui abbiamo ottenuto il premio Nobel. Questa è una malattia che noi guariamo. Il grande Napoleone Bonaparte, che aveva la sua manina su, proprio sullo stomaco, in realtà è morto per Helicobacter, per un cancro dello stomaco ed Helicobacter. Quindi una volta che noi tiriamo via questo batterio, bene, noi siamo tranquilli per 50 anni. Questa è una meravigliosa avventura che chiudiamo, una chiusura del cerchio. Da quando sappiamo che esiste possiamo scovarlo e abbiamo il dovere di eradicarlo, perché lasciato libero di lavorare indisturbato il nostro batterio, il nostro inquilino, ci danneggia in modo più o meno grave. Che cosa possiamo rischiare, professor Vaira? Purtroppo un brutto male nello stomaco. Come le ricordava, lo IARC, che è l'agenzia europea che si occupa della prevenzione del cancro, quindi indipendentemente dallo stomaco, della mammella, della prostata, del polmone, lo identifica alla stessa stregua del fumo per il cancro dei polmoni. Quindi è un agente maledetto. Nel momento in cui noi tiriamo via questo batterio, noi abbiamo la certezza che la eziopatogenesi, cioè la cascata carcinogenetica, viene interrotta. In parole molto semplici, riusciamo a fare prevenzione del cancro dello stomaco. Allora, andiamo un po' a scovarlo. Direi che potremmo partire da degli indizi, professor Vaira. E se lei è d'accordo, partirei da una parola, dispepsia, con cui il nostro medico traduce una batteria di segnali, di sintomi che gli andiamo a raccontare, che vanno dalla difficoltà a digerire, al bruciore di stomaco, al gonfiore, alla sonnolenza postprandiale. E diciamocela tutta, anche a quel malessere un po' diffuso, associato anche a una certa irritabilità, che avvertiamo quando ogni pasto diventa un po' un macigno. Professore, che cosa possiamo perché, altro Nico, aggiungere? Secondo lei la Deborah non c'ha questi sintomi? Perché la Nicoletta non c'ha questi sintomi? Ce l'abbiamo un pochino tutti. Il 50%, non è così? Altro che. Il 50% degli italiani, stiamo parlando di 30 milioni, qualche volta non digerisce bene la pizza e gli rimane qui sullo stomaco. Quindi è una veramente molto diffuso. Tenga presente che questo batterio, come prevalenza, quindi come diffusione, è secondo solo alla carie dentaria. Quindi in pratica 25 milioni su 60 milioni di italiani albergano questo batterio. Quindi è una cosa veramente diffusa che dobbiamo assolutamente smorzare. Chi dovrebbe quindi ricercarlo, dato che non si può parlare di uno screening? Chi ha mal di stomaco. Come giustamente ricordava lei un secondo fa, questo corteo sintomatologico è collegato all'infezione del Helicobacter. Quindi quello, quando lo stomaco ci dice qualcosa, quando il reflusso ci dice qualcosa, quando il pancino ci dice qualcosa, quando l'alveo non è molto regolare, ecco, è un corteo sintomatologico molto complesso, ma che ci si infila veramente un po' di tutto. E potremmo avere tanti vantaggi insospettabili, perché l'Helicobacter è collegato, cioè se riusciamo a eradicare questo batterio, anche altre situazioni che non sono necessariamente connesse con la salute dello stomaco potrebbero essere risolte. Ce ne vuole ricordare qualcuna, professor Vaira? Ma certo che sì, per esempio la psoriasi, queste povere persone che hanno la psoriasi, che sbattono la testa perché a tutt'oggi non sappiamo la causa della psoriasi, se hanno, passatemi il termine, la fortuna di avere questo batterio, bene, la psoriasi migliora in maniera drammatica. Tanta gente, in particolare le donne, che assumono il famoso farmaco per la tiroide di sostituzione, non voglio dirlo per motivi commerciali, la ma esatto, la levotirossina, esattamente. Bene, queste persone, se hanno ancora una volta tra virgolettato la fortuna di avere il Helicobacter, la quantità di levotirossina si riduce del 10%, quindi cambiano vita. E le coppie che non riescono ad avere dei bimbi, bene, nel momento in cui c'è la presenza di questo batterio, tirando via la presenza di questo batterio, queste coppie, ringraziando il cielo, riescono ad avere dei bimbi. E alla fine, come dicono gli inglesi, last but not least, l'emicrania, questo maledetto mal di testa che a volte affligge tanti italiani. Se nel momento in cui la persona abbia l'emicrania e c'è la presenza di questo batterio, tirando via il batterio, sparisce anche l'emicrania. Attenzione, non è una panacea, per l'amor di Dio, magari come dicono gli inglesi, I wish I would, magari, ma sicuramente un 50% di queste patologie trova una soluzione. E credetemi, in medicina questa è la fine del mondo, perché queste patologie non hanno nessuna soluzione, nemmeno nel 5%. Elisabetta da Cagliari, buongiorno all'800240024. Buongiorno a lei, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, sì, bene. Volevo chiedere appunto questo. Io per due volte ho fatto la cura con due tipi di antibiotico per appunto debellare il batterio, ma non ci sono riuscita. La terza volta, sotto consiglio del gastroenterologo, mi diceva di fare la cultura, cioè per vedere che tipo di batterio era. Abbiamo fatto questo ennesimo esame, risultato molto basso, e quindi da quel momento non ho fatto più niente, perché mi hanno detto che probabilmente la carica batterica era talmente bassa che non serviva più fare la cura. Cioè io tuttora sono sempre col batterio. Allora, professor Vaira. Elisabetta, innanzitutto quello che diciamo un attimo fa, Nicoletta, si ricorda quando io le ho detto che questo batterio dobbiamo allevarlo, dobbiamo coccolarlo? È veramente difficile da tirar fuori. Quindi quello che dice Elisabetta è giustissimo. Noi facciamo in Bologna l'antibiogramma. Cos'è l'antibiogramma? La cosa più semplice del mondo, quello che facciamo per le cistiti. Quando abbiamo bruciore a fare la pipì, prendiamo un goccino di pipì, perdonatemi il termine, andiamo a vedere quali batteri e quali antibiotici. Ecco, questa cosa noi lo facciamo nello stomaco, che è complicatissimo. Ma in realtà, grazie a questo tipo di esame, che è l'antibiogramma, come dicevo, noi riusciamo a formulare, a costruire una cura su misura, per esempio per Elisabetta e per i propri figli, ed avere un'eradicazione, come le diceva, 99 volte su 100. Professor Vaira, lanciando la puntata di oggi insieme a Deborah, io dicevo, a Bologna io devo cercare uno specialista che possa in qualche modo essere associato sia alla cucina che al nostro bagno. Noi oggi parleremo, infatti siamo al CERSAI e parliamo naturalmente di questa eccellenza della tecnologia, della creatività dei nostri bagni, e non potevamo coinvolgere anche il nostro gastroenterologo per accompagnarci al bagno, perché è un organo molto intelligente il nostro intestino. È fondamentale. Il secondo cervello, ribadire di nuovo. Ti piace? Ormai la so. Bellissimo, ha studiato. È un attimo che perde il ritmo. Noi intanto rispettiamo il ritmo, andiamo a sentire le informazioni sui mercati e poi ritorniamo subito dopo insieme. Tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Batter per un giorno, anzi sino alle ore 12, a caccia dell'Helicobacter pylori, il batterio responsabile di gastrite, ulcera, ma anche del tumore dello stomaco. Ci guida oggi il professor Vaira nelle sue tracce, ma non ci fermeremo. Come anticipato, ci allargheremo a parlare anche della salute e dell'attività del nostro intestino. Ci allarghiamo, ma giochiamo in casa, perché per definizione la gastroenterologia è quella branca medica che si occupa dello studio, della cura, delle patologie a carica dello stomaco, dell'intestino e più in generale di tutto l'apparato digerente. Insomma, professor Vaira, lei è lo specialista perfetto per il CERSAI, in linea direi anche con gli ambienti che qua al CERSAI vanno in scena. Chiudiamo con alcune altre informazioni sul batterio, ma poi ci trasferiremo a distanza e i problemi continuano e non mancano. Parleremo del nostro intestino, un attimo che perde il ritmo. Vuole stuzzicare i nostri ascoltatori per invitarli a intervenire all'800240024? Ma visitare CERSAI e vedere questi meravigliosi bagni dà ovviamente la voglia di andare in bagno. e sinceramente, adesso parlando seriamente, il cibo e il bagno restano l'ABC della nostra vita. È vero. In assoluto. Non c'è soldino che tenga, non c'è classe sociale che tenga. Il cibo e il bagno è l'unica cosa che ci accomuna. Fattori democraticissimi. Dovreste organizzare degli incontri per il prossimo CERSAI e anche per la popolazione sulla salute come gastroenterologi. Ma è così. Ecco, intrecciatevi con il CERSAI. Sicuramente allora, lo faremo. Vogliamo leggere questo messaggio di Antonio che bacia? Dici? Sì, ti piace? Perché a me piacciono allora, gli uomini che baciano. Antonio ha avuto l'Helicobacter eradicato da molti anni con terapia, ma se mi capita di baciare con scambio salivare, precisa perché qua dobbiamo avere bacio, tutti i dettagli, certo, esatto, profondo, alla francese. O avere fusioni con una compagna che avesse l'Helicobacter, magari inconsapevole, senza saperlo. Professor Vaira, Antonio è preoccupato, rischio di riprenderlo o nel mio caso di esportatore rimane eradicato comunque, quindi soggetto respingente al nuovo. Un bel bacio varrebbe un Helicobacter. Antonio non ha alibi, Antonio non ha alibi, deve baciare, non si trasmette con il bacio. Infatti questa è la cosa che ho dimenticato di dire a Isabella di Cagliari. Dobbiamo assolutamente cercarlo nei nostri bimbi. Noi lo becchiamo dalle mamme quando siamo piccini, quando ci assaggiano con la punta della lingua la pappa, quando ci allattano al seno, quando mettono la goccina di latte sul dorso della mamma, sul dorso della mamma, chiedo scusa. Quindi noi lo becchiamo da 0 a 3 anni. Non si trasmette con i rapporti sessuali, non si trasmette con i baci, quindi Antonio deve baciare, non si trasmette con le effusioni. Quindi potete baciare e dovete, perché anche la saliva funziona, è una sorta di tra virgolette vaccino. Meravigliosa immunologica, c'è tutti gli anticorpi del mondo. Ecco, allora Renato, buongiorno da Padova. Buongiorno Nicoletta, complimenti come al solito per la trasmissione. Grazie Renato. Chiamavo perché io ho problemi di reflusso gastroesofageo, ho fatto un gastroscopie anni fa, ero stato sofferente di Helicobacter, poi ho fatto la classica terapia, ma si parla più di 20 anni fa. E adesso quando mangio ho sempre tutti i sintomi che lei ha descritto prima nella sua trasmissione con il dottor Vaira. Ecco, come volevo che pancia gonfia, reflusso. Certo, ed è un insomma, sono tutti sintomi che rendono la giornata sì, particolarmente pesante e anche sul la qualità nostro di vita. Umore. Molto bene. Come si può aiutare Renato, professore? Allora, innanzitutto Renato deve ripetere assolutamente un test sul respiro o un test sulle feci. Quindi innanzitutto dobbiamo avere la certezza che questo batterio sia andato via. Lo ripeto, una volta che lo tiriamo via, noi abbiamo la certezza che non torna più per 50 anni. Però abbiamo bisogno di un tempo zero, visto che lei l'ha fatto tanto tempo fa. Queste due cose del reflusso e del batterio sono assolutamente interscambiabili, quindi A, assolutamente verificare se il batterio c'è o non c'è, nel momento in cui non c'è dobbiamo assolutamente tentare di aiutare Renato con una terapia con i protettori dello stomaco per abbassare l'acidità, ma la cosa ancora più importante da dire a Renato è di bere tantissima acqua per il reflusso, di lasciar perdere il caffè, di lasciar perdere la cioccolata, gli aranci e i limoni, il pepe e il peperoncino e il vino bianco. Siccome dobbiamo essere buoni, altrimenti Deborah e Nicoletta mi picchiano, assolutamente concesso pane, pasta, carne, pesce, frutta, verdura, latticini, quindi in realtà possiamo mangiare tutto. Infatti. Professore, reflusso e gastrite spesso si confondono e si intercalano con una preferenza a favore della prima, il reflusso o della seconda, al punto tale che persino a tutt'oggi maggiori esperti a livello mondiale faticano un po' a etichettare in modo netto la differenza esistente tra le due patologie. In che modo? I sintomi si accavallano, ci può essere per esempio dolore, reflusso, eruttazione pancia gonfia, nausea e senso di sazietà. Che fare allora? Cara Nicoletta, quando mi sono laureato, purtroppo 35-36 anni fa, esisteva, come lei diceva, solo la dispepsia. Del reflusso non ne sapevamo nulla, perché esisteva l'ulcera. Adesso abbiamo sconfitta l'ulcera, ecco perché adesso parliamo innanzitutto di reflusso. Quindi i sintomi sono, tra virgolette, diversi, ma il reflusso ha realmente questa tipicità di questo draghetto che ci sputa una lancia di fiamma su per l'esofago ed è collegato a tanti sintomi tipo il mal di gola, tipo il cardiopalma. Quanta gente va di corsa in pronto soccorso perché pensa di avere un infarto, in realtà ha solo un reflusso gastroesofageo. Quindi non è una patologia assolutamente da sottovalutare ed è purtroppo una patologia cronica. Mentre l'Helicobacter noi lo curiamo e siamo a posto per 50 anni, il reflusso invece abbiamo bisogno di stargli addosso con, ripeto, più che altro con ausili dietetici tipo acqua, tipo dieta e innanzitutto sport e stando attenti al nostro peso. Eccola lì. Perché tutti vogliamo con questa determinazione vocale per dire il nostro peso. Tutti vogliamo la pillolina magica, ma nessuno vuole fare un po' di sport, nessuno vuole fare un po' di nuoto, nessuno vuole mettersi a dieta. Invece questa è la cosa fondamentale. Parliamo anche dell'ulcera. Ha un dolore preciso o può essere asintomatica? L'ulcera ha un dolore meravigliosamente preciso. Chiaro. Chiaro, ecco. È l'unica cosa con cui si fa diagnosi. Anche il dottore di base, tranquillamente, senza la gastroscopia, può fare diagnosi di ulcera come può fare diagnosi di malattie da reflusso gastroesofageo. Lei giustamente diceva dell'overlapping, cioè delle due sintomatologie. Io rilancio quello che lei mi chiedeva, addirittura c'è l'overlapping anche sull'intestino. Quante volte le nostre amiche dicono ho mangiato un'insalatina e sembra che abbia mangiato il cinghiale di Obelix e di Asterix perché ho la pancia gonfia come se fosse incinta. Ecco, sono tutte collegate perché il tubo è un tubo collegato tra adesso. Maria Rosa, buongiorno, ci chiama dalla Spezia, benvenuta. Buongiorno a voi, grazie. Posso parlare? Certo. Buongiorno anche a voi e al professore. Io volevo chiedere se ci possono essere degli inconvenienti. Spengo la radio perché sennò sento il ritorno. Ecco. Brava. Mi hanno diagnosticato anni fa da un gastroenterologo a Carrara che io ho una cardia speante, però avevo fatto appunto per il reflusso per vedere, e l'elico batter non è presente, mentre mio marito l'aveva. Però ho sentito l'intervento precedente. Può baciarlo, può baciarlo il marito. Quindi... No, no, baci pure suo marito, professor Vaira. Io mi fermo qua perché il dottore è lei. Per l'amor di Dio, io sto fermo. Continui. Allora, Maria Rosa. È andata. Beante. Maria Rosa, come scusi? Ho paura, siccome ho sempre un po' lo stomaco dilatato, eccetera. Sono una distonica cronica, può portare, io ho il terrore di quelle belle cosine che possono venire. Quindi dovrò fare dei controlli annuali, semestrali, come mi comporto? Si comporta, mia cara, innanzitutto, ripeto, bevendo acqua. Non è una situazione cronica, non le può succedere nessuna di quelle brutte cose di cui lei parlava, di cui lei pensava, ma deve assolutamente, io non so quando lei pesa, ma stare attenta al suo peso e deve stare attenta alla sua dieta. Questo è veramente la cosa fondamentale. Andiamo a Marco da Chieti e poi subito dopo le informazioni sul traffico con la risposta successiva del professore. Marco? Sì, sì, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Marco? Salve. Senta, sarò telegrafico. Nulla, praticamente ho avuto delle manifestazioni a livello cutaneo e sono stato sulla bocca e sulla mano, che poi si sono estese sulle dita. Sono stato da vari dermatologi, ma senza esito. Creme, cremine, nulla di che. Alla fine sono stato da un gastroenterologo, perché anche due dermatologi mi avevano diagnosticato il reflusso. Cioè, siccome ce l'ho sulla bocca, intorno alla bocca, e quindi sono andato da un gastroenterologo, il quale mi ha prescritto tutta una serie di esami che finirò da oggi a due mesi. Ora, volevo sapere se... con questa strada, facendo un check-up, perché mi ha prescritto una marea di esami, potrei arrivare alla soluzione. Tutto qua. E quindi se nell'intestino potrebbe trovarsi la causa, il problema delle sue manifestazioni cutanee. Grazie, ci fermiamo, andiamo a sentire le informazioni sul traffico e ritorniamo perché di intestino vorremmo proprio parlare subito dopo. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Cuore e denari. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. uno dei ritmi più facili da perdere, ma su cui possiamo intervenire, il ritmo del nostro intestino, un organo sensibile, delicato, intelligente, ma a volte, professor Vairas ragiona, e quando fa le bizze uno strano malessere ci invade. A volte il nostro intestino perde la testa, e di intestino vogliamo parlare per rispondere anche al nostro ascoltatore che ha avuto delle manifestazioni cutanee, ha iniziato a consultare dermatologi e poi è finito dal gastroenterologo. Insomma, è uno specialista che... L'unica cosa che deve fare il nostro ascoltatore è questo test sul respiro, sulle feci, per identificare la presenza o meno di questo Helicobacter. Tutto il resto degli esami, a mio parere, sono del tutto inutili, perché se questo test fosse positivo, una buona notizia per lui; se il test fosse negativo, allora si impone un esofago gastroduodenoscopia per identificare se c'è o meno un reflusso gastroesofageo. Professor Vaira, abbiamo sottolineato un possibile legame tra psoriasi e l'Helicobacter, ma potrebbe esserci anche lo stesso legame con la rosacea? Assolutamente sì, come giustamente le ricordava nella prefazione, questo è veramente il veleno di Cleopatra. Noi ce lo becchiamo a 2 o 3 anni, è veramente una microdose che entra nel nostro sistema immunitario. Questo è il motivo per cui interagisce con la tiroide, con l'emicrania, con l'infertilità, con la psoriasi, quindi è un reale legame. Professore, parliamo di intestino, se funziona bene la vita ci sorride, se perde il ritmo l'umore anche diventa grigio e in alcuni casi nero. Le nostre nonne già lo sapevano, se l'intestino funziona come un orologino tutto procede bene, e la medicina conferma il ruolo di questo organo per il benessere generale, perché l'intestino è veramente, oltre a essere il secondo cervello, è un organo che ci protegge, che ci assicura veramente il benessere. È la nostra vita, Nicoletta. È la nostra vita. E adesso guardo lei e Deborah e dico: quando avete l'intestino che va bene, specialmente voi donne che avete anche la bega del ciclo mestruale, siete felici. Certo. Siete predisposti persino per i maschietti. Esatto. Uomo felice. Siete predisposti persino per i maschietti. Lei ha detto una verità sacrosanta: dovete preoccuparvi di fare stare bene noi. Adesso noi per anni ci siamo occupati di voi, fate stare bene noi e la vita vi sorriderà, professore. E questo è il segreto della vita. Se noi riusciamo a far stare bene le nostre signore, loro faranno stare bene noi. No, adesso partirà un nuovo modo di dire, no? Quando ci vedono isteriche, invece di chiederci per caso è il ciclo, ci chiederanno se è andata in bagno. Esatto. Ma e noi... voi scherzate, ma è realmente così. Il futuro della medicina, adesso parliamo seriamente, è il microbiota. Questo è il futuro della medicina. Noi lì avremo i prossimi 50 anni, saranno completamente su questo tipo di topic, perché abbiamo miliardi e miliardi di batteri buoni e cattivi, e l'equilibrio di questi due batteri fa in modo che l'intestino vada o non vada. Cosa possiamo fare per accarezzare il nostro microbiota? Assolutamente e l'acqua. Mantenerlo assolutamente l'acqua, quindi stare attentissimi alla dieta, ma per l'amor di Dio mangiare senza nessun problema, ma senza fare vizi, esattamente, fare dell'attività sportiva e utilizzare invece di farmaci, quei benedetti farmaci di cui parlavamo, che bloccano la secrezione acida, che purtroppo siamo stati abituati noi, colpa nostra di dottori, a somministrare. Alludo ai bloccanti degli anti-H2 recettori, la vecchia nitidina, alludo agli inibitori della pompa, il vecchio omeprazolo, ne davamo a bizzeffe. Dobbiamo fare un change. Dobbiamo completamente cambiare la nostra maniera di fare il dottore, e quindi giustamente per aiutare i nostri pazienti, e invece somministrare in prima battuta probiotici, i meravigliosi fermenti, cosiddetti fermenti, ma che in realtà scientificamente sono probiotici, e in assoluto la miscela migliore restano sempre i bifido e i lattobacilli. Professore, la dieta ha un ruolo importante per anche il benessere del nostro intestino. Si invita sempre a consumare fibre, ad aumentare la quantità di fibre, ma ci sono degli intestini che rispondono un po' irritati a questa integrazione di fibre. Persone che lamentano ancora gonfiore di pancia, o intestino che fa un po' le bizze. Che cosa c'è di sbagliato? O la fibra... L'eccesso. Come al solito ci vuole sempre un po' di buon senso, caro Nicola. virgolette, l'eccesso sia da una parte che sia dall'altra. Volevo sottolineare, questo è veramente molto importante, che chi purtroppo ha un intestino irritato e quindi un po' bizzarro, in realtà questo intestino è la causa anche di un malessere, di profonda astenia, di cefalea, di cattivo umore. Sto parlando seriamente, nel senso che c'è un nesso fisiopatologico. Quando l'intestino non funziona, sequestra sangue ai territori nobili, al cervello e agli arti inferiori, per cui donna o maschio che sia, ci si alza sempre stanchi, come se qualcuno ci avesse bastonato, ci si alza sempre nervosi, sempre facilmente irritabili, e la causa è veramente solo l'intestino. Rossella da Roma, chiudiamo in bellezza con la sua domanda. Buongiorno Rossella, benvenuta. Buongiorno, grazie per l'interessamento. Dunque, la mia domanda è questa: mia figlia soffre di nausea tutte le mattine in modo sempre più violento ultimamente. Quanti anni ha Rossella, la sua bambina? Non è una bambina, ormai è grande, ha 32 anni. Ah beh, la giovane donna che vive con lei. Allora, ancora Rossella vive con me. Di fatto è stato diagnosticato l'Helicobacter. La gastroenterologa che la segue ha detto che siccome l'eradicamento è una terapia abbastanza pesante, le consigliava di completare alcuni impegni di lavoro che ha adesso e poi cominciare una terapia per eradicarlo. Però nel frattempo sta nausea sta diventando sempre più importante e sempre più invalidante. Certo. Mi chiedevo se che cosa si può fare? Professor Vaira, cara allora Rossella, innanzitutto lei è la causa del malessere di sua figlia, perché sua figlia ha preso l'Helicobacter da lei. Quindi A, assolutamente anche lei deve fare il test sul respiro. B, sia lei che sua figlia dovete assolutamente fare la terapia per l'eradicazione. C, le garantisco che i prossimi 50 anni starete meravigliosamente bene. Professor Vaira, il gastroenterologo ha suggerito alla signora di posticipare la terapia perché è una terapia pesante. È davvero una terapia pesante per questa combinazione dei due antibiotici? Assolutamente no, specialmente nelle donne. Questa combinazione con i due antibiotici, e quindi torniamo all'intestino, è meravigliosa, perché non solo toglie il batterio dello stomaco, ma normalizza l'intestino. Quindi in realtà disinfetta tutto l'intestino. È realmente, credetemi, meravigliosa per tutti, ma in particolare per le donne. Lei ha suggerito alla mamma di fare il test del respiro in alternativa a quello delle feci, proprio perché alla figlia è stato diagnosticato l'Helicobacter. Quindi a tutte le mamme all'ascolto che hanno figli a cui è stato diagnosticato l'Helicobacter, l'invito è di fare il test del respiro, perché siamo noi mamme a trasmetterlo ai bambini. Io gliel'ho detto che la voglio con me al Sant'Orsola, la voglio assumere, voglio che lei venga a lavorare con me, almeno riuscirà ad aiutarmi. Questo è un messaggio importantissimo. Tutte le mamme positive devono assolutamente fare il test. Adesso stiamo parlando seriamente. Dovete pensare ai vostri figlioli. Tutte le mamme positive devono assolutamente fare i test a tutti i loro bimbi. I mariti non c'entrano nulla. I fidanzati non c'entrano nulla, i compagni non c'entrano nulla, ribadisco, non si trasmette con i rapporti sessuali, con i baci, sono due linee diverse, per cui se il compagno, il marito, il fidanzato ha l'Helicobacter dipende dalla mamma del marito. Prendetevela con la suocera, insomma, esatto. Si torna sempre lì. Professor Vaira, grazie per essere stato con noi qua al Cersaie. Per esserci venuto a trovare, soprattutto noi invece ritraslochiamo brevemente a Milano, non domani prima di avervi dato poi gli aggiornamenti della borsa. Grazie a tutti, a presto. Thank you.